noi. Ehi, tanto tempo qua, cosa sta facendo qua? Giù, manco fuori si può uscire, cazzo. Mi sa che io rimango tutto il giorno a casa, è tutto il giorno così, domani leggerò miglioramento, ma piove tutto il giorno. Tutti al mare, io? C'ero io al mare, io. Vieni in spiaggia a prenderci il sole. La temperatura non è fredda, lo sai quanti turisti c'erano ieri, zona di Coso, San Teodoro, Calabrandinchi, eccetera. Ieri ero a Coso, a Stintino. Venerdì ero a Stintino e stavo facendo il bagno. Poi la sera è scoppiato il temporale pure. E anche ieri ho visto gente facendo sul bagno. Sono quei turisti, quelli intelligenti che fanno le vacanze quando è tutto chiuso, che c'è chiuso, quando sta finendo la stagione, riescono a trovare prezzi quasi al regalo, pacchetti ultimo last minute. Ocla, e da te com'è la situazione? Qua è una pozzanghera. Claudio sta già uscendo con la canoa. Claudio, ce l'hai il mobile nautico? E ti chiamiamo lì in VHF, sul canale 16. Ah, non ce l'ha più, il sommergibile, con la radio sommergibile che la puoi trasmettere anche in mezzo all'acqua, IP68. Perché no? Prova, ogni tanto mi si è abbassata la cosa. E lo stavo dicendo, voglio vedere a Claudio tutto infangato, tutto... Ma qualcosina di più stai spingendo rispetto al solito tu, Gianfra? No, ho capito, qualcosa in più rispetto al solito? E se ti serve qualcosa di più rispetto al solito? No, mi sembra... Aspetta, provo a aumentare, stazionare non c'è, lui non ci vedo una mazza, come intera che era questo, sì, qua aumenta, e qua è normale, come sempre. Perché ti ha aumentato? Superi 9,30 con i picchi. Addirittura. Sembra normale, o sono cibio, sto giocando cibio come una talpa, però è normale. Claudio, esci fuori, proprio di casa. Non penso più, non ce n'è fango da me, è tutto erba, sto bagnato. Ma se c'è la veranda io ci voglio uscire fuori a prendere aria, non c'è nessun problema. Ma passa acqua nella veranda. Questo invece no, mi sono tanto che stavo preparando la pappa al cagnetto, così raffredda, e lui a mezzogiorno, mezzogiorno e mezza mancia. La pappa ha cambiato un po' di carne di macelleria, che l'ho bollita, ce l'ho fatta a tappetti, ce l'ho fatta la carne oggi domenica e deve mangiare bene. No, da noi oggi c'è. Quindi passa al forno, non è mangiato domenica il cane? Già preso i finocchietti qua fuori, che ce li ho già puliti, fatti, pronti. Adesso in settimana facciamo i cicci. La mamma ha fatto l'uggeccio, diceva quella canzone. Avete notato c'è una preparazione di russi, di così, da paura, c'è anche molto rumore, però si sentono chiaramente. No, io ho appena acceso adesso un secondino, ho sentito a Claudio, ha dato un colpo importante, e come si chiama? Unico, nel senso non ti puoi sbagliare che sia lui. Il funzionamento è importante io per quello. Quel tocco tutto del Mickey Game. Del PTT. Del PTT volevo dire, eccetera, Mickey Game. Il tuo stocco è proprio unico, gli altri ce l'hanno un po' più basso, il tuo proprio si sente forte. Il TAC, dicevo, il TANG. Del LOC, ma se schiaccia l'altro cosa fa? Con questo invece col PTT normale? Uguale, si sente sempre il botto. Sì, si sente. Aspetta, c'è gente sotto, avanti che vuole entrare. Io. Sta chiamando Sardinia. Sì, ma ci sente, ma sono russi di propagazione. Quando piove così, quelle antenne mi chiacciono la ricezione, è una cosa favolosa veramente. Sono guarda più che contento, poco QRM, sento bene le voci sotto. Ho commutato con la manta, ma cazzo sale il QRM da Santiago 1 a Santiago 7. si sentono forti. Passo Italia. Ti volevo chiamare a Piazza Antenna stamattina, ma c'è un po' di umidità. Guarda, la stessa cosa volevo fare io, piazzarti a portare la padella a mettere con la canana, ma troppo umido al muro, vabbè. I tasselli poi magari si sfaldano, non tengono bene. Ok, vai Giaffra. Allora Claudio, vieni da me, che da me c'è anche da salire sul punteggio, dai, da bravo. C'era un'idea folle di alzare la Grand Master, siccome passa c'è un albero in metà piedi, la volevo alzare un po' di 5 metri, eccetera. Ma vedere cosa succede. Oh, devi cambiare anche il cavo però, perché non è sufficiente. Ma sono io antenne, già rimane in chiedi. Figurati che giù in cantiere ho trovato due dalmine nuovi, quindi mi foro, li metto, sono da 6 metri l'uno, li foro, lo faccio telescopico, quest'estate ci metto quei due tubi da 12 metri e ci butto sulla la J-Pol, minchia, ne vedi segnale allora? Io invece ho fatto viceversa, l'ultimo l'ho tolto due o tre settimane fa, tanto ho visto che qua si ripiega, ci ho messo quelli là normali, siccome flettono di più, e quindi evidentemente tengono meglio lo sforzo paradossalmente, perché i dalmine siano molto, molto più resistenti, però a seconda del coso ripiega, non ho capito il perché. Quindi invece flettono di più e rimangono sempre più o meno dritti. Mia madre vecchia l'antenna, cioè rimane così, già mi ha fatto assai. Basta, ci sentiamo per fare due chiacchiere, non devo arrivare in capo al mondo, vai Robè. Il problema non è tanto arrivare in capo al mondo, il problema sono i fulmini. Secondo dove sì, c'è una zona sperduta, nel senso fuori città, magari in mezzo ai palazzi è raro che scarichi, perché c'è sempre qualcuno più in alto, ma se sei in campagna a mettere un traliccio troppo alto bisogna stare un bel attento. Ma infatti io l'ho messo più basso possibile e non scaricano, infatti a me già non mi è entrato in alto a carbonato, che sono fatto più di 5.000 euro di danno 6 anni fa, due radio nuova, non potevo soffrire, cazzo, per carità, meno male non ha fatto danno all'interno della casa, però mi ha bruciato tutti gli elettrodomestici, compreso le 3 TV, è un bel radio, alimentatori, computer, infatti quel computer lì, roba, quello l'avevo preso dopo perché l'altro mi aveva detto che non si poteva più riparare. Sì, io ho sotto mano questo tipo che c'ha quasi a regalo, zona di Cagliari, c'ha due spezzoni, due tralicetti, 4 più 4 metri, può arrivare a 8 metri di quelli a base quadrata che si innestano uno sopra l'altro bullonati, quelli che usano per i concerti e cose del genere, me lo dà quasi a regalo, quello che ho preso dalle attrezzature mi ha dato il numero di telefono, te lo porta pure a Sassari, però è una cosa un po' impegnativa. Ma lascia fare, va benissimo così, tu hai organizzato bene, l'antenna messa bene, io ho fatto lavoro definitivo lo stesso, c'è il piantone a 60 con altri due 55 45 40, sono praticamente 2 4 4 metri 5 metri, va bene già, ne ho fatta 6, se voglio la metto a 20 metri l'antenna, ma cosa c'è, solo ti crei solo problemi, ti crei solo problemi, non è manco vero, mi pare ne ha bugato tutto, io mi non dormivo mi danno però beh, ma non c'è voluto direttive a casa, sia per l'altezza sia per i problemi che mi poteva creare, tanto è vero che più di una volta mi ha staccato completamente i tiranti e guarda che quella roba lì, quell'impianto me l'aveva fatto Fabrizio, ho messo dei tirafondi ma forti, se non c'erano quei tirafondi portava via anche il muro, ma stai scherzando, più alto sei e più problemi ti crei, invece quando non vai nulla un'antenna e boh, basta così, già va bene, vai Giaffra, sei andato a fare lumache, perché a me me ne stanno entrando dentro casa, c'è il giardino pieno di lumaculi. A pensare che qualche anno fa sembravano tutti debellati, che non ce ne fossero più, che avessero tutti ammazzati, invece ne stanno tornando. Questa zona è piena di... anche stamattina c'era gente, c'entrano, non entrano dal cancello, stanno fuori nel guardarei della strada. capito, però già c'è un po' di gente in questa zona che fa domani la mattina presto. Io sono uscito a accompagnare mia figlia al lavoro perché mi serve la macchina per andare a fare la spesa, capito, che domani c'ho gente, mia sorella l'alberghiero, mio fratello, domani sono i santi, quindi siamo un po' in famiglia perché scendono a Porto Torre sera al cimitero e quindi fanno un salto qua a pranzo, quindi mi mancava un po' di roba, sono andato a prenderla e ti dico che era pieno di gente qua, tutto nella strada, nei campi, tutti per di gioco, gli tu esci dal confici, ciu, io apro il cancello e le faccio entrare dentro, quando ce n'è un bel chiudo il cancello. Rientra. Tu ce l'hai addestrata le lumache, entra direttamente in cucina. Sì, si apre la porta del giardino, sì, entrano lì, allora, entrano lì, metto il secchio, se vanno dentro, lo fanno tutto loro. Adesso sono uscito, quello fa con una sigaretta nella... In veranda ce ne sono 6 o 7 proprio nel pavimento della veranda. E il giardino è tutto pieno, sto scherzando, il muro, dobbiamo i giocheri, ma cui. Avanti Gianfra. Sì, non mi sono allontanato. Ero qua, stavo guardando che è atterrato su un albero, proprio quasi attaccato alla Game Master, un volatile, e volevo capire cosa era, è molto bello, ed è ancora lì che sta prendendo un bel po' d'acqua. Non hanno paura loro, beati loro. Ce ne sono volatili qua. Gli unici volatili che ci sono il mio uccello e basta, mi ha pippo mio. Ciao, c'ho io. No, qua c'è di tutto, di più picchi, quelli là come si chiamano, come match. Avanti Roberto, allora che si dice? Che si dice? Speriamo che questo tempo non faccia danno, perché sta piovendo ininterrottamente da ieri notte. Speriamo che non faccia danno, perché se succede, vabbè, noi non credo che arrivi come è successo su Sicilia, che ha fatto delle allucinazioni, ma sembravano i fiumi dentro la città, Catania, dove c'è la piazza, la fontana, eccetera, c'è un fiume di acqua, ma non centimetri, mezzo metro erano, più di un metro in certi punti. Per adesso qua sembrerebbe tutto tranquillo, però c'è molta attività di sicurezza. Oh, ho visto, a proposito di sicurezza, ho visto poco fa un video, sono arrivati tutti per i G20, non ci sono state meno di 200 macchine, un corteo di macchine, qui c'erano, vabbè, macchine italiane, la polizia, poi c'erano quelle americane, ci avevano sulla macchina dei bicchieri fuori strada grosse, tipo SWAT, li hai mai visti quei coso lì, con queste cupole, queste antenne strane, sembravano tipo radar, di subatturi, non so cosa erano, un paio italiane ce n'erano con questa antenna, sembrava un coso, un appendice aerodinamica dietro, un'antenna tipo una freccia dietro in coda, e poi questo americano c'avevano il coso del radar, tipo radar, la cupola quando metti un radar in una nave, uguale, cacchio, ma grosso, questi tipo Hammer, quel fuoristrada americano. Devo subito. Sì, ce l'hanno da tanto, sempre che è presente con la macchina, ed è il collegamento satellitare con gli Stati Uniti, praticamente mobile. E poi c'è tutto il sistema di collegamento con il servizio segreto, no? Che è quello incaricato di proteggere il Presidente. E poi c'è tanta altra roba, linee telefoniche, ce ne sono almeno due di quelle macchine, perché è tutto rindondato, no? Poi c'è, come si chiama, la bestia sarebbe quella dove viaggia il Presidente, che è blindata, regge anche, cosa regge? Anche un lanciarazzi dovrebbe reggere. E tutto lì, non puoi abbassare anche il finestrino, te le mangi. E ce n'erano due di quelle cosiddette bestie, ma sono Lincoln, mi sembra sono della Lincoln con le macchine lì. Ma io quello voglio capire, cioè fare una, non diciamo manifestazione, un evento così importante dove c'è un rischio di, non dico di attentati perché c'è tanta protezione da tutte le parti, eccetera, eccetera. Non sarebbe meglio trovarti uno spazio, te ne vai in un'isola, un'isola Lampedusa per fare un esempio, un posto lontano da tutti, dove ti prendi una, come si chiama, una zona aperta, dove non ci siano ostacoli visibili a 100% e te li fai di lì. E anche qua hanno demolito una città, perché tu vedi il disagio che creano queste manifestazioni per la città, hanno chiuso 10 km quadrati di città, cioè uno deve andare a casa, deve andare a fare i bisogni al cane, eccetera, eccetera, non si deve muovere, deve rimanere dentro casa, chiuso. Per dire che l'hai fatta roba, e fallo cacchio nel deserto del Sahara, in Liti Bianchi. Non è come dici tu esattamente. Prima è una questione di prestigio e nessuna nazione si piega a quello che sono gli attentati terroristici. Guai, sarebbe la fine della civiltà. E secondo, queste cose hanno proprio quella funzione di far vedere che noi siamo dei paesi liberi e quindi si può circolare in strada, eccetera, eccetera. Poi disagi due giorni a Roma, cosa vuoi che sia, ma c'è presente il traffico di Roma in tutti gli altri giorni. Capace che ne godano pure. E poi comunque dà risalto a livello mondiale. Tieni presente che gli italiani sono quelli in cui in tante manifestazioni che sono state fatte non hanno mai avuto un attentato, perlomeno noto, perché poi magari ci hanno provato e ovviamente non lo dicono, ecco. Però sono molto molto molto bravi in quel campo. Sì, hai detto bene, siamo forse l'unica stagione, nazione al mondo, parliamo di nazioni non di terzo mondo, che non abbiamo mai subito attentati importanti, niente, cioè ce li abbiamo fatti noi gli attentati interni noi, però fatti atti terroristici di esterni non ne abbiamo mai avuto, perché abbiamo un servizio all'avanguardia mondiale tra i migliori del mondo, soprattutto perché noi siamo abituati alla mafia, per cui siamo super attenti a queste cose, almeno si dice così, almeno dicono così gli esperti, per cui abbiamo un sistema di controllo super super evoluto che nessuna nazione al mondo ha come l'Italia. Non è tanto quello, perché poi noi tendiamo a esaltare sempre la delinquenza, la camorra, la mafia e così via, però non sta esattamente così, perché anche gli altri paesi ce l'hanno, con la differenza però che spesso sono colletti bianchi senza scrupoli lo stesso, e quindi lo so benissimo che ogni mondo è paese, anche nei paesi più civili, tra virgolette, tipo Svezia, eccetera, non se la passano molto bene, basta ricordare quella grossa strage che ha fatto quel fuori di testa lì, e tra l'altro mi sa che adesso non so se sia ancora in carcere o se sia in riabilitazione, dopo che ha ammazzato tutti i suoi compagni anche. Hanno fatto anche un film in quell'isola, te lo ricordi? Sì, l'ho visto tutto l'altro giorno delle cose, ma adesso poi male diranno che è fuori di testa, lo terranno sotto controllo in qualche centro di controllo. No, ma la cosa bella, cioè paesi che si vantavano di essere super protetti, in primis gli Stati Uniti, vabbè, ma lì ci fanno troppi anni, poi non parliamo Francia, che sono super convinti, inglesi, da tutte le parti, Spagna, paesi nordici che normalmente di terrorismo zero, eppure cacchio. Noi la paura mia è che ci si sveglino, che si stiano preparando a fare una cosa molto molto visibile, per dire, ci parlava sempre qualche attentato a Piazza San Pietro, cose del genere. Speriamo bene che non facciano qualche danno, soprattutto quando ci sono manifestazioni tipo la Pasqua, feste di coso, di l'Angelus o cose del genere, la domenica, perché di lì cacchio c'è un sacco di gente, forse il Covid ha calmato un po' le acque, però quell'attentato delle Torri Gemelle, se lo prendiamo così come crediamo che sia successo, hanno preparato, non so, 4-5 anni per farlo, poi tutto il resto dei compluti, quello è tutto da capire perché non sappiamo niente, però grazie a Dio in Italia non è mai successo niente, mi qualche scemo con una scimitarra, con un coltello, però gente che proprio premeditano un attentato esplosivo e cose del genere, come l'hanno fatto in Francia, ancora per il momento grazie a Dio non è successo niente. Perché sotto sotto, anche se non sembra, in realtà noi ci abbiamo sempre, il maestro è stato Andreotti in quel campo e degli ottimi contatti con tutti quei paesi lì, quindi non a chi li finanzia non conviene dare l'occhio per fare, che ne so, un attentato in Piazza San Pietro o comunque contro il Vaticano, perché creerebbe dei problemi notevoli. Preferisce farli agli Stati Uniti, perché rappresentano un po' il paese che vuole a tutti i costi esportare la democrazia, ma si è visto e stravisto che questo non funziona. La democrazia questi paesi se la devono guadagnare, un po' le povere da soli. È così, però a noi interessa più l'aspetto radio, l'aspetto tecnico di queste cose. Infatti sto guardando tutto il sistema, tutta l'area di Roma e praticamente anche del Lazio, di volo ed è tutta chiusa, non si vede un cacchio, hanno spento tutti i transponder, mentre invece le comunicazioni sono quasi regolari, però con proprio strette strette, no? A livello di siamo lì, siamo qua, siamo giù, sopra. Vediamo so. Vediamo se Claudio è rientrato. Avanti Claudio. È andata la macchina, non ci ha detto niente. Oh, sta aumentando, A cosa, la pioggia? Sì, sì, ogni tanto da un colpo aumenta, ma guardate voi di boh. Poi quello spinato non l'hai messo, il computer non l'hai programmato, io invece sto sventiando, mi si è rotto per due giorni, ero impegnato perché mi si è rotto un amplificatore audio di un sistema network di collegamento radio, che palle, ogni tanto ce n'è una e adesso l'ho ordinato, vediamo se arriva in questi giorni. E poi volevo sempre buttare questo apparecchio, ma dato gli eventi che ci sono stati non ho potuto. No, riguardo del computer me l'ha dato Claudio, ne aveva uno lui, un'unità esterna, e adesso Luca li sta mettendo a mano per fare il lavoro di manutenzione, pulizia, tutto l'interno era abbastanza pulito comunque, ho visto, e mettere la pasta dissipante nuova eccetera eccetera. Non è un computer di ultimissima generazione, però mi sta installando Windows 10 e sta facendo tutte le operazioni di formattazione eccetera eccetera, e quindi è pronto per l'operatività quanto prima. Ha detto Luca prossimamente me lo prepara, in questi giorni ha detto si mette a farlo, e dopodiché andiamo in coso, in rete. Era ora, mi raccomando, qualunque cosa fai stai attento alle schermature, tutti i cavi con calza belli schermati e tutta roba il più corta possibile. Sì, sì, quello naturalmente deve essere la cosa principale, cavi di qualità. No, ma io c'ho il cavo, addirittura c'ho un cavo di un impianto Kenwood di auto, quei cavi multipolari, non so se l'hai presenti, che utilizzavano per mettere il lettore CD, il multi CD all'autoradio, che qui sono cavi di qualità, sono cavi audio, sono molto schermati, hanno la calza, hanno la fagnola sopra eccetera, sono diciamo 13 poli, ne utilizzo per dire 4 quelli che servono, gli altri li lascio vuoti. Da poco sta aumentando la preparazione. Sì, mi pare che siamo anche flessibili, perché se non poi ti danno fastidio. Io in stazione ne ho due di computer, uno dedicato alle comunicazioni in alta frequenza, assicura il collegamento apparato rete per tutta la Sardegna, no? Per il collegamento, a copertura diretta e indiretta. L'altro invece è il computer essenzialmente per le HF, anche se può andare anche in un HF, però principalmente per il monitoraggio HF, perché avendo lo schermo molto grande gestisce meglio, va molto meglio. sì, ho avuto della, qualche soddisfazione, diciamo, non il massimo, però collegare la Germania con circa 2 watt, vabbè, c'è un'antenna grande, quindi in ogni caso è un po' così, però 2 watt, dai. Certo, è una potenza corrente, diciamo, molto molto limitata, però se riesci a farti sentire è sempre più soddisfacente che attaccare 10 kW che ti possono ascoltare tutti. Una domanda, questo computer c'ha 2 ingressi o uscite che siano per attaccare i monitor, se uno ne vuole mettere un altro in più di monitor, cosa deve fare? Ogni tanto c'è questo coso che mi sembra un QRM familiare. Comunque, sì, lo colleghi, io facevo viceversa, cioè collegavo 2 computer a monitor tramite un commutatore particolare che cambiava anche l'USB. Per quello lì li colleghi a una destra, una sinistra, poi te lo scegli quello che devi usare, oppure possono anche lavorare in contemporanea, non basta che lì, tanto Windows ha la possibilità di doppio schermo, quindi da una parte vedrai un programma, dall'altra parte ne vedrai un'altra applicazione, magari può essere utile se c'è spazio. No, quello che voglio capire, allora io voglio utilizzare uno per fare quel gioco che dobbiamo fare in digitale, per fare la prova, uscita dell'apparecchio a CCG2 è collegato al computer. Dopodiché voglio mettere una di quelle famosine, non diciamo chiavette, quella un po' più evoluta, per attaccarla all'altro monitor, per vedere come ricevitore. Però se uno vuol mettere un altro monitor per attaccarla a un'altra radio e il computer c'ha soltanto 2 ingressi monitor, e si possono sdoppiare, si può fare qualcosa? Sì, ripeto, se c'è lo spazio per 2 monitor si può fare, avvii le 2 applicazioni, una la mandi a destra, una a sinistra, e le gestisci così, capito? E le dovresti vedere tutte e 2 contemporaneamente. Questo lo posso fare anche con un monitor riducendolo, come si dice, il desktop, no, evidenziando un programma all'altro, certo è tutto più piccolo, però si fa lo stesso, si possono avviare 2 applicazioni contemporaneamente vedendolo anche sullo schermo, e lì è più comodo perché lo vedi in tutte e 2, tutto lì, però si può fare, non dovrebbe essere un problema, Windows te lo permette. No, forse non mi sono spiegato bene. Allora, parliamo di uscite, cioè 2 uscite, perché puoi attaccare 2 monitor? Una di queste uscite si può sdoppiare e metterne 2 di monitor, è tipo come quando c'è una multiscarte nel televisore, vuoi attaccare video registratore, DVD, eccetera, eccetera, se ne puoi attaccare anche 3, 4, dipende da quanti ingressi c'è. Si può fare una cosa del genere? Esiste un adattatore che ti permette da un'unica uscita uscire con 2 uscite monitor, 2 VGA doppie? No, quello lì no, io mi riferivo o all'utilizzo di 2 HDMI, e quello è ok, oppure all'utilizzo di una VGA e di un'altra DVI che ce l'hanno tutti i computer, anche quello si può fare, ma collegare 2 monitor come se fosse un semplice coso elettrico alla sua uscita, no, perché ci sono alimentazioni, ci sono tanti segnali non va molto bene, non è un esperimento che ho mai fatto, ma so che non si dovrebbe fare, perché poi succede uguale, guai, capito? Cioè ci deve essere una presa per una e una presa per l'altra, allora va bene. No, non intendevo a farli andare contemporaneamente, nel senso tipo commutatore dell'antenna, c'è una calata di antenna e 2 uscite, cioè gli sviluppi, giro a sinistra l'apparecchio A e giro a destra l'apparecchio B, facendo una cosa del genere, cioè tipo un commutatore dell'antenna, cioè da un'unica uscita del PC, del computer, e alimenti 2 monitor. Sì, con un commutatore sì, ma non vedo male la necessità, dato che quello lo potrebbe fare già il computer di se stesso se c'ha due prese d'uscita, ecco. Prima la mandi, che ne so, in HDMI e poi la mandi in VGA. Il monitor te lo permette di fa, nel menu del monitor c'è la scelta, no? Magari non sarà molto agevole, molto rapida, però se lo fa, ecco. Ah, quindi non ci avevo pensato, anziché usare di utilizzare l'ingresso VGA usi l'HDMI, per dire, è come che ne hai due di differenti, però con ingressi diversi. Sì, anche se, ripeto, fa anche altre funzioni in contemporanea, una specie di estensione di schermo, ma ai fini delle applicazioni non ti cambierebbe niente, anzi ti eviterebbe la computazione. Io di norma avvio due, anche tre applicazioni, poi quella che mi interessa al momento la scelgo, ecco. Tanto le puoi mettere in background tutte e quattro, se il computer è più potente non c'è particolari problemi, ecco. Quindi puoi controllare la posta, puoi immediatamente passare alla parte radio, puoi farti un Tetris, capito? Oppure mettere lo schermo in modo che si veda tutto quanto allo stesso momento. Infatti, visto che tu sei più pratico, io per vedere l'intensità del coso, parliamo quando ascoltiamo, quando mi dicono dammi un controllo a livello microfonico, guarda che frequenze audio sono attenuate o accentuate, utilizzo un analizzatore di spettro audio e un registratore, una piatta dove c'è l'indicatore di livello che mi dà i livelli di coso. Se c'hai o se ti capita di avere qualche informazione per eliminare questi due apparecchi che sono sprecati, in sostanza in parole povere, utilizzando sempre l'uscita della CC2 che è in 200 mV in RCA, che poi l'attacca a questi apparecchi qua, c'è la possibilità di arrivare con questo al computer in un'applicazione che ti faccia vedere tipo una scheda audio, che ti faccia vedere lo spettro e il livello, perché io mi ricordo nel vecchio computer che avevo si poteva fare utilizzando la scheda audio. Guarda, si può fare tutto, non ci dovrebbero essere problemi, però la presa ACC, la sua funzione principale, oltre a quella di avere alcune parti accessorie, è quella di dare i due segnali, io mi riferisco sempre ovviamente ai Kev, agli ICOM, agli AESU, eccetera, che hanno questa presa, poi magari le piedinature sono diverse, però il motivo dell'uscita è sempre quella, quindi da una parte può metterci il packet, utilizzare questa uscita per il packet, per la telescrivente eccetera, dall'altra ci sarà l'ingresso ovviamente, e parte non trascurabile, ricordate che è anche il PTT avviato dalla ACC, quando lo azioni deve praticamente inibire il microfono, perché il microfono in quel caso di utilizzo dell'ACC sarebbe una fonte di disturbo, quindi deve essere escluso automaticamente una volta che l'apparato va in trasmissione da parte del PTT ACC. Sì, sicuro, naturalmente, tipo il CV doppio deve escludere la parte microfonica. No, io mi ricordo, forse uno dei primi computer che avevo, quando entravo sulle applicazioni scheda audio, mi faceva vedere, per dire, quando stavo ascoltando un brano musicale, la forma d'onda del brano, e c'era anche l'analizzatore di spettro. I telecamere di computer sono completamente ignorante, le cose essenziali so fare. I computer più moderni, questa roba ce l'hanno ancora, questa funzione, o come si chiama? O viene eliminata e devi fare un'applicazione separata? Non ho capito la domanda esattamente, mi parlavi di una funzione, se ce l'hanno ancora o meno, un computer moderno può fare tutto quello che facevano i vecchi, quindi su questo, anzi lo fanno meglio perché ovviamente sono più potenti. No, no, allora forse non mi sono spiegato, sicuramente le tecnologie sono migliorate eccetera, però molte cose le eliminano, dice sono superflue e magari ti costringono a prenderti un programma apposito. Io quando volevo fare una registrazione audio utilizzando il computer prendevo una canzone oppure riprodurre un brano musicale, ne avevo registrato una canzone sul computer e poi potevo vedere la forma come tipo quando fanno le intercettazioni telefoniche, cosa, i servizi, dai, ti fanno vedere la tua voce con la forma d'onda e c'è l'analizzatore di spettro e l'indicatore di livello. Le schede audio di computer attuali, questa applicazione, questa cosa che prima era naturale compresa nella scheda audio, c'è una pagina che te la fa vedere? Sì, ho capito parzialmente, purtroppo, perché qua è arrivato un brutto segnale, cioè un paio di tuoni abbastanza vicini, speriamo bene. Dunque, tramite la scheda audio, che oramai hanno anche dei livelli in termini di larghezza di banda abbastanza fedeli, abbastanza di qualità, riposare anche come strumenti, ci sono tanti programmi che ti danno la possibilità di fare analisi, quindi all'ingresso audio, linee o microfonico come preferisci, la capacità di avere degli input particolari e di controllare la larghezza di banda, la frequenza eccetera, cioè tanti, oramai queste cose vengono fatte tutte tramite computer. La parte in realtà veramente difficile non è tanto fare questi collegamenti eccetera, è quanto quella di avere il software, perché guarda, ti faccio un esempio che vale per tutti, il codec 3 dell'OH, che era una casa che sia olandese, per fare analisi di segnale radio, digitale e compagnia cantante, e ti fa vedere anche la forma d'onda dell'emissione, attualmente credo che vada su 5.000 euro, non sono spiccioli, e quello che fa tutto è il soft abbinato a un computer appena recente, neanche di grossa potenza. E quindi è questo, non è importante tanto, anche gli stessi apparati oramai di laboratorio, sono tutti dei computer dedicati magari a fare quello o quell'altro, però sono tutti computer, hanno il loro sistema operativo, alcuni dedicati, alcuni invece utilizzando direttamente Windows. Sì, no, però naturalmente ci sono i programmi dedicati, eccetera. No, io parlo entrando sulla scheda audio del computer, in cose elementari, nel senso le cose più semplici, farti vedere il livello, quando fa una registrazione, facciamo l'esempio, una registrazione hi-fi, che c'hai, prendi il giradischi, lo colleghi alla piastra e ti registra il segnale, vedi l'indicatore di livello che ti dà il livello di picco e tu automaticamente ti rendi conto di cosa stai facendo, e poi c'hanno l'analizzatore dello spettro, io sto parlando di audio sempre, non di alta frequenza, l'uscita microfonica, diciamo, dell'altoparlante, ed ecco, l'uscita dell'altoparlante che, diciamo, non è continua, non è fissa, perché altri il volume aumenta, parliamo dell'uscita in bassa frequenza dell'apparecchio, che ha stabili 200 mV come si deve essere per legge, per averlo uniforme come intensità di segnale, senza aumenti o diminuzioni, quello lì tu lo colleghi al computer, questa uscita, il computer c'ha una scheda audio, la scheda audio in quello che avevo io ti faceva vedere quello che entrava, ti dava il livello d'ingresso e come si chiama? È la modulazione, non la modulazione, diciamo lo spettro audio. Ancora le schede audio, questa funzione ce l'hanno all'interno del computer o viene esclusa, ti costringono a mettere un'applicazione esterna? Vuoi dire un'interfaccia esterna? Dipende dalla natura del segnale, se deve fare delle conversioni particolari oppure se queste conversioni possono essere fatte direttamente, come spesso sta succedendo adesso, dal computer stesso. Tieni presente che la parte d'ingresso, sia essa microfonica ma ancora più la parte linea in delle schede audio, che sarebbe quella arancione, credo, se non ricordo male, una volta che hanno il loro segnale ben pulito, che provenga da un giradischi, che provenga da un vecchio registratore a cassette o che provenga da una radio, loro lo spettro te lo danno. Io ad esempio ho il programma che ritengo tra i migliori, che si chiama Radio City, sicuramente l'avrei sentito e conosciuto, e quando che utilizzo tra l'altro anche per fare le registrazioni, no? Che voi, quando qualcuno mi chiede un controllo di radio eccetera, e io dico non lo so, non sono in grado, però te la faccio ascoltare, è un programma che ti dà tutta la linea di picco praticamente del segnale, lo puoi fare sia in stereo sia in mono, ma dato che le trasmissioni radio sono in mono, io lo tengo in mono, e valutare anche l'ingresso in quant'è, perché come se fosse uno stereo c'è anche i cosi di segnale, di intensità, e ti fa anche, ti segnala anche quando vanno in una parte rossa che l'ingresso è troppo forte, satura eccetera, quindi puoi fare bilanciamenti, puoi fare tutto quello che vuoi, puoi modificare il segnale eccetera, e in più c'è la registrazione che puoi convertire da PCM nei vari formati MP4, MP, cos'era, tanti altri, insomma, tutto lì, cioè puoi fare un po' di tutto, oramai ci puoi anche parlare al computer, ma letteralmente ci puoi tranquillamente parlare, nel senso che tu parli e lui ti risponde. Sì, ho capito come stai dicendo tu, ma questa cosa tu la vedi sul monitor o sul display dell'apparato, questo che mi stai dicendo? No, i display dell'apparato, se parliamo di radio, sono sempre delle cose a sé stanti, capito? È la radio che può mandare un segnale, dei vari segnali digitali al computer tramite seriale o tramite USB, come accade con tutti gli apparecchi moderni, e mostrarti la radio più o meno con interfaccia identica, magari con le stesse manopole oppure diversa come quella del TS2000 ad esempio, e da lì fa la semplice gestione, niente di particolare, quindi a posto di toccare con le mani la radio, tocchi il mouse, alzi il volume, abbassi il volume, cambi canale, registri la trasmissione che stai ricevendo, tutte quelle belle cose, sono programmi remoti. La ICOM su qualche apparato la fa pure pagare molto cara, insomma €70 quell'applicazione, altri invece te la forniscono con l'apparecchio direttamente, però sono cose anche abbastanza a chi interessa, io preferisco sempre toccare la radio, per dire il vero, nonostante tutte le radio siano collegate al computer, ma per l'input del segnale veri e propri. Sì, no, naturalmente, perché io ti ho fatto questa domanda, io ho un convertitore video da analogico, te lo trasforma in VGA, perché il computer ha la necessità di un segnale digitale per lavorare normalmente, mi confermi? E la stessa cosa la vorrei fare, uscita analogica dell'apparecchio, diciamo l'uscita audio dell'apparecchio, però con segnale stabile, quella che utilizzano negli amplificatori, nelle casse, cioè, negli ingressi degli amplificatori, cioè, ci vuole questa interfaccia o riesci a farlo direttamente utilizzando l'uscita analogica, l'attacchi per dire all'ingresso del microfono del computer? Allora, guarda, come ti ho già detto, l'uscita dell'apparato può andare previa schermatura, previo controllo dei livelli, che molti fanno con una banale interfaccia, ma tu potresti fare con qualche resistenza, con qualche condensatore, no, perché come ti avevo detto tende a variare un po' i toni dei dati. Lo puoi fare anche direttamente, io lo faccio, guarda, per questioni di separazione più che altro, cioè per impedire che quando l'apparato opera in frequenze particolari o con potenze particolari, l'RF residua possa tornare indietro e andare verso il computer, e questo sulla scheda audio non sarebbe molto piacevole, capito, se parliamo di grosse potenze. E quindi si utilizzano dei trasformatori, ma sempre banali, il segnale che arriva tanto è analogico, quello che va dalla radio verso il computer, poi il computer se lo trasforma come vuole, ecco, è un segnale di qualunque tipo. L'unico che viene male, ripeto, per questione di banda, proprio perché i trasformatori hanno loro stessi delle capacità di banda molto limitate, è la radio mondiale DMR, quella HF, no? Perché ha una larghezza di banda molto alta e non riesce a passare attraverso questi trasformatori in maniera, diciamo, pulita, e quindi ha necessità di un collegamento diretto proprio all'ACC o addirittura anche più avanti dell'ACC, come ti avevo spiegato l'altra volta. Per tutti gli altri segnali invece non c'è problema, anche per il packet a 1200, mentre ci sono, e non c'è neanche problema per la ricezione ad esempio dei sistemi AIS navali, che sono le trasmissioni delle navi di posizionamento in diretta, quello lo puoi mettere anche senza, anzi forse è meglio metterlo senza trasformatore, su quella presa ricevi anche le navi. Guarda, c'è tutto un mondo che è talmente grande che potremmo stare un mese qua a parlare, però poi alla pratica, come ti ho detto, sono tre fili, audio, ingresso e PTT per quello che riguarda le radio. E poi il computer ti fa tutto, se vuoi registrare, se vuoi andare in trasmissione, se vuoi andare in ricezione, pensa tutto lui, è un tutto a fare. Sì, sì. Aspetta, adesso vediamo se è entrato Claudio, c'è questa portantina che siete. 5 minuti al telefono, devo fare un'altra fratta, se non mi dimentico, Gianfra, ci sentiamo tra poco. Ok, no problem. Rieccomi, ci sei Gianfra. Ora? Sì, avanti, Mirko, tu sei. Gianfra, tu sei. Non stai uscendo di radio, chi sei? No, tu Antonio stai uscendo, no, c'è forse il segnale Gianfranco, mi sembra, l'avrei sentito. Come sei così basso, Antonio? Ma chi è? Barracuda d'Aosta. Sei quasi 9, però la radio è bassa, come va? Ma chi è Antonello? Bassissimo sei, Antonio. Sei bassissimo sei, guarda. Assolutamente no, sei davanti a me. Devi arrivare almeno 9+20, non sei manco 9. No, no, non c'è il segnale è troppo basso. Ma trovate le stazionarie, no, arriva a 9.20, 9.15 qua, Antonello, adesso sei quasi 9. Come me, quasi 9, non ci arrivo a 9. Ma tu eri che non stavi uscendo, no, non eri tu, là. Forse era qualche altro. Avanti che c'era un segnale quasi 9.30, e tu già si sente lo stacco, che non parlava. Avanti chi è? Telefono a me un attimo, scusate. Ehi, ehi, te la sono qua. Io mi sono allontanato, non so se qualcuno ha chiamato. Ti ha chiamato Roberto, è al telefono. È al telefono. Sì, ma anch'io ne ho approfittato per vedere un po' la situazione. Sta piovendo molto. Figurati qua, c'è la scarica delle trottate che è allucinante. Sì, effettivamente. Ma perché fa questo scherzo? Sto andando da due parti. Forse è l'acqua. Ancora più basso c'è, Antonio, ancora più basso, c'è qualcosa che non va. Santiago Otto sta arrivando, la radio è bassa. Claudio, ma sei sicuro? Lui è Uscimi davanti a te, è un tuo schioppo, io ce l'ho davanti, Antonio lo guarda, deve arrivare 9+20. Come radio io lo sentivo non fortissimo, però bene. Il segnale era un basso 7, credo. E ce l'hai davanti, è Usci, è davanti a te. Davanti ce l'hai, davanti, davanti. Qua lui deve arrivare 9.20, la radio di Antonello io la conosco, non è bassa, non è 5, 4, anche 3 le posso dare qua. Non metto lingua allora. Molto bassa, rispetto a come usciva lui è molto bassa, non è il suo segnale, non è la sua radio, Gianfranco, capito? Lo dico perché ci ho modulato spesso con Antonello e poi anch'io ce l'ho davanti. usci, capito? Quindi no, non è che cambia molto, il segnale ci dovrebbe essere almeno 9 più 10, 9 più 20, non è neanche 9, è 8, ma te addirittura 7, e tu usci, lo vedi? Sì, magari c'è la stazionaria. C'è qualcosa nell'antenna, no, non va bene, non sta uscendo come deve uscire, non esce un po' forte. Aspetta, mi arrivava 9 e 20 a carbonazzi, non è che mi sono spostato di molto, Non ce l'ho davanti, usci. Osci, Muros, Tisci, Ugini, arrivano tutti forti. Arriva 9.40 Claudio, con 10 watt. Quanta gente che c'è sotto. Quando muovi lascia un po', si sente parecchia gente. Io sento gente, quel REM è salito un bel, con tutte e due le antenne. Con tutte e due, proprio scariche elettrostatiche, c'è qualche temporale in giro. Adesso è la tua radio, segnale 9, si è salito da 8 a 9. No, la radio è bassa, questa è molto più forte, la radio ti confermerà anche Gianfranco. Il segnale è 9, non è ancora il tuo il segnale, devi lavorare sull'antenna, però la radio è S5 perfetta, vai Gianfranco. Guarda, io ti posso dire che lo sento un po' strano. Sotto, figurati, quando lui parla sento la propagazione che c'è sotto, no? La gente che parla sotto, che evidentemente se anche di propagazione arriva più forte. Come segnale non mi è sembrato di avere grandi progressi, perlomeno da questa parte. Poi tieni presente che questo è il solito coso dei baracchini, no? Quindi lascia il tempo che trova. Sì, si porta presso tutto il QRM perché è molto alto il QRM già fra le scariche e se lo porta presso. Se supera il 9 lo senti benissimo, anche io ho lo stesso problema, però di radio ha migliorato tantissimo. Ecco questo segnale, lo senti, questo è forte. E allora c'è qualcosa che non va. Senti questo disturbo, Claudio? Sì, sento tutto. No, mi sono allontanato un attimo che Filippo voleva uscire fuori, però adesso lo seguo un secondo, perché se non si bagna tutto. Aspetta un attimo, già fa. Guarda, c'è entrato Antonello, Roberto è al telefono, già rientra subito. Sì, no, fa riuscire, che ne sta, proprio adesso ne sta scendendo il cielo. Quindi avanti, l'amico di José Antonello, sono sbagliato. Ah, ecco, allora forse per quello che c'è qualcosa, ma tieni presente che sicuramente anche da te sta piovendo, non è che puoi ottenere grandi cose con questo tempo. Guarda, per darti un'idea, c'è lo stesso segnale di questa signorina che sta parlando, chissà da dove, che a me arriva S7. Per darti un'idea, il QRM, diciamo, quando smettono di parlare non è fortissimo, perlomeno da me, però sono fortissimi i segnali di questi qua. Comunque siamo qua, se c'è bisogno, tanto dovrebbe rientrare anche Roberto. Guarda, adesso che hanno smesso S3, il QRM, S3 e 5, quando parlano il segnale sale, tieni presente che ho un'antenna, cioè io ho tutto l'orizzonte libero, ecco, a parte supporto Torres, però su tutte le altre parti, anche sulla tua zona, infatti non so quanto sto arrivando lì, non è che sia con potenze proprio forti, sono con le potenze normali, quelle 4 watt, 3 watt a volte, non so come ti stia arrivando lì. Sì, ah, per me va più che bene, dato le potenze in gioco, poi sempre se sta anche piovendo, però l'antenna, siccome è protetta anche da la Game Master, quindi è circondata di vetroresina, non risente delle antenne del QRM creato dalle antenne in alluminio, ecco, che naturalmente aumentano molto il QRM. E niente, tutto lì, ovviamente stai uscendo con anche tu con 4 watt, 5 watt, presumo. Ti rilasci, il muscolo. Buongiorno. Stavamo parlando Antonio. Sì, stava parlando Antonio, che è Antonio, boh, no, è trattino, mi sono spaventato, ho dato un fischio. Ciao T, buongiorno. Comunque Antonio, adesso fai meglio, dai, rispetto a prima fai meglio. Ciao T, buongiorno. Migliorare, prendete, ciao ciao a tutti. E te già fattende. C'è un professore in corto, in corso, far andare, dai, già. Ciao dopo. Va bene, dai, ci sentiamo, siamo qua. Vediamo un po' c'è Roberto. Ha finito di telefonare, Roberto. Ciao Giulio, ciao. Ciao Tio, ciao Claudio, ciao Gianfranco e l'altro amico non lo sento. Claudio, buona radio, bene, sta andando? Ci mette il modulato, vuol dire che sta andando bene. No, volevo dire, intendevo se strappa. No, no, no, non strappa, non strappa. Già va bene, già va bene. No, perché io pendello facile, sai, e quando incomincio a pendellare qui davanti si sposta tutto, per cui adesso mi sono ascoltato e ho regolato. Dunque, sono contento che ho azzeccato. Bene, bene, ciao Giovanni. Sì, ciao Giulio, buona domenica, ciao anche a Tino. E niente, qua sta piovendo forte sempre. Allora non hai fatto uscire, no, al cagnetto. Forse Claudio si è riallontanato perché c'era il cane che voleva uscire, ma ne sta lasciando il cielo. Sicuramente anche da te Giulio, vero? Sì, qui sta piovendo forte, mi ero un attimo allontanato che stavo chiudendo la porta. Sì, qui sta piovendo abbastanza, dai. Poi c'è un'oscurità che non finisce mai. Sembriamo alle 7, alle 8 di sera, boh. Vabbè, in queste giornate oramai ci dobbiamo abituare. C'è molto umido, moltissimo umido. La temperatura qua segna 20 gradi, però c'è un umido che non ti dico. E niente, vediamo un po' se c'è l'amico di Ussi, che è un dipolo che lo sta regolando, vediamo un po' se ha risolto. No, sicuramente alle prese ancora con questo dipolo che c'è sul balcone. E niente, avanti Giulio, lasciamo un po' di bianco ogni tanto per vedere se chiama Roberto oppure se chiama questo amico che sta regolando l'antenna. Ok, già fra, beh certo. Hai parlato dell'amico di Ussi, allora suppongo che sia Antonello Barracuda, ecco. Confermi che è lui? Sì, confermo. Ok, Antonello, non ti ascolto, come mai? Ti ho sempre ascoltato, oggi Nisba, va bene che oggi il tempo è brutto, per cui sarà anche per quello. Comunque ti saluto dopo un sacco di tempo. Antonello, vediamo un po', vieni avanti se ci sei. No, forse ancora sta lavorando sopra. Tu la senti tutta questa preparazione, Giulio, questi segnaloni ogni tanto a livello di S7, ma sono tutti da fuori. Sì, ma io mi sento accavallati l'uno con l'altro anche. Non capisco come mai questa strana preparazione. Bassi però sono accavallati l'uno con l'altro.